24 mattino. 8 e 17 minuti, ben ritrovati a 24 mattino. Il numero per i vostri messaggi 349-238-6666. L'economia. Soldi e dintorni. Deborah Rosciani, ben ritrovata. Alessandro, ciao, buongiorno. Tutto a posto? Stamattina sembro una cavernicola, una voce che... No, vabbè. Mamma mia. È arrivata un po' preoccupata oggi Deborah Rosciani. Dai, ti prego, non infierire su di me che è già una giornataccia. No, vabbè, un piccolo furto, le hanno rubato qualcosa in aeroporto, da queste parti qui. Insomma. Basta. Cose che passano. No, tra l'altro sono andata a seguire un evento questo fine settimana in cui molti ci hanno fatto dei gran complimenti per i nostri ingressi del mattino. Ah, questo beh, nostro perfetto, sempre battibecco che abbiamo, no? Che da molti è interpretato come, no. Sì, esatto, come una lite, invece assolutamente una grande no. amicizia. In ogni allora, caso, torniamo sul tema che abbiamo trattato già un po' di tempo fa, quello degli eco incentivi per le biciclette, perché è stato da una parte un successone, dall'altra parte insomma come sempre si è capita, un bubbone, esattamente, no? Quando un grande successo è tale ci sono anche, come dire, dei risvolti della medaglia curiosi. Tra l'altro stamattina pensavo, leggendo i giornali e anche così un po' riflettendo su quello che è successo ieri a Milano, perché c'è stata la tappa contestata del Giro d'Italia, sì, i ciclisti. La farsa, sì, la, esatto. Del Giro d'Italia. Infatti, i ciclisti protestano per la sicurezza dei circuiti, ma ci sono anche ciclisti meno professionali, comunque non professionisti, che protestano proprio perché non potrebbero mettere la mano, rischiano di non poter mettere la mano sulla bicicletta dei loro sogni. Costantino Ruggero, direttore generale dell'ANCMA, l'Associazione Nazionale dei Costruttori di Cicli e Motocicli, buongiorno. Buongiorno. Allora, l'avevamo invitata un paio di settimane fa, lo ricordiamo, perché ci aveva illustrato tutta la rosa degli ecoincentivi per comprare la bicicletta oppure per rottamare il vecchio ciclomotore e comprarne contestualmente un altro. Un tale successo di questi ecoincentivi che il sistema informatico del Ministero dell'Ambiente si è talmente inceppato al punto che avete dovuto sospendere il ricevimento delle fatture e delle prenotazioni presso i rivenditori. Che cosa è successo, Ruggero? È successo appunto che la richiesta è stata superiore a qualunque umana aspettativa, per cui il sistema si è inceppato e quindi c'erano alcuni rivenditori che riuscivano a entrare nel sistema ed altri no. A quel punto i rivenditori ci hanno segnalato che avevano molti ordini ormai raccolti e fatture eseguite che dovevano inserire. È stato forte il sospetto che inserendo tutte le vendite già effettuate si arrivasse a superare il fondo in dotazione del Ministero. Che ricordiamolo è di quasi 9 milioni di euro. 8 milioni e 750 mila euro. Allora abbiamo chiuso, detto da questo momento non si raccolgono più ordini né si vendono biciclette con lo sconto, e adesso siamo in fase di chiusura, di smaltimento di tutte le fatture che sono state acquisite. Ecco, tra l'altro è anche abbastanza difficile. Non saranno fondi residui, semmai ci sarà il problema di dover, e speriamo che il Ministero ci aiuti, di dover pagare anche le ultime biciclette vendute. Ovviamente se ci fossero anche solo 100.000 residui riprenderemo l'incentivazione. Vi impegnerete insomma a coprire anche queste. Tra l'altro ho letto che avete pensato di utilizzare per gli incentivi anche i fondi destinati alla comunicazione, visto che insomma questa ha avuto l'innegabile successo e non è stato continuato. Sì, quelle 200.000 che dovevano servire a comunicare che c'era questa cosa e che è stato inutile comunicare perché il bocca ha fatto miracoli e tutti sono corsi a comprare le biciclette, sono stati messi a disposizione dell'utenza. Ecco, senta Ruggero, il successo come si è distribuito rispetto a tutte le possibilità di acquisto che c'erano garantite appunto dal fondo da 8.750.000 euro? Credo che siano stati tutti acquirenti di biciclette o perlomeno la larga parte. È un altro dei problemi che dovremo affrontare. Praticamente il fondo è stato interamente consumato dagli acquirenti di biciclette, mentre il fondo era nato precipuamente per favorire il ricambio delle due ruote a motore. Lei sa che un ciclomotore di nuova generazione riduce l'inquinamento del 90% rispetto agli Euro Zero che tuttora circolano. Purtroppo il ricambio dei ciclomotori è stato bassissimo perché c'è stata questa incredibile, frenetica corsa degli amanti della bicicletta a comprare la bicicletta con lo sconto, anche perché effettivamente lo sconto per la bici era molto allettante. Ricordiamolo allora, Ruggero. 30% con un massimo di un tetto di 700 euro. Ecco. Questo ha consentito di comprare sia biciclette da tutti i giorni sia biciclette un po' più costose. Quanti ciclomotori invece sono stati prenotati? È possibile avere un dato un su questo? Più di 100, 100 contro 47.000 biciclette. Incredibile. Cioè questo è esatto. Mentre un anno fa era esattamente l'opposto. Ricordo che un anno fa, in un anno, le biciclette avevano assorbito 91.000 euro in un anno, quest'anno 8.700.000 in pochi giorni, quindi è una roba assolutamente al di fuori di ogni previsione e che spiega gli intoppi che si sono verificati in un sistema che era stato dimensionato per numeri diversi. Ecco, tra l'altro non credo che sia arrivata nessuna comunicazione ufficiale da parte del Ministero dell'Ambiente, che appunto ha in qualche maniera credo attenda di sapere quanti sono e se ci sono ancora fondi disponibili prima di prendere delle decisioni. A questo punto, ecco, formalmente, Ruggero, che cosa dovrà succedere? Perché la sospensione della prenotazione è avvenuta giovedì, quindi c'è stato il fine settimana di mezzo, è abbastanza difficile capire se tutto l'arretrato è stato smaltito in questi giorni. Sarà successo credo tra venerdì, sabato e succederà oggi. A questo punto quali passi devono fare coloro che attendono di sapere se ha la possibilità di acquistare la bicicletta con gli ecoincentivi? Dunque, possibilità di acquistarle da ora in poi credo che siano ridottissime ed è inutile in generare illusioni. Chi le ha comprate e pagate con lo sconto deve rivolgersi al suo negoziante. Il problema credo sia più dei negozianti che dell'utente finale. Infatti quelli di Milano erano anche particolarmente arrabbiati proprio perché temono che avendo consentito la prenotazione secondo l'ecoincentivo, se il Ministero dell'Ambiente poi non li eroga direttamente, dovranno far loro lo sconto all'acquirente. Cioè, ora staremo a vedere, ancora presto per ipotizzare una situazione del genere. Se si verificherà cercheremo di dare una mano a tutti. Il certo. Ministero si è dimostrato sensibilissimo fino ad ora e noi siamo parte di questo e credo che tutto il mondo della bicicletta deve gratitudine al Ministero. Speriamo che continui a mostrare la stessa sensibilità e soprattutto che abbia la possibilità, se necessario, di reperire nuovi fondi. Allora vi continueremo a seguire, Ruggero. Intanto grazie per essere stato con noi, buon lavoro, perché saranno giornate intense per risolvere questa questione. Alessandro, dicevamo un'Italia, uno spaccato d'Italia inedito, che va in bicicletta, questa. Sì, esatto. Anche se ci scrive un ascoltatore, sì. Dice alcune pubblicità continuano a parlare dell'incentivo, insomma. Non se ne sono accorti forse. o forse sì, sai che io sono sempre maligno rispetto malignetto. A te. Allora alle 12 parliamo di una cosa divertentissima, il condominio, la vita di condominio. Oggi parliamo dell'assemblea per approvare il bilancio. Sono le 8:32, ben ritrovati da Alessandro Milan. Diamo uno sguardo alle notizie in primo piano. Gli stipendi degli italiani sono tra i più bassi in Europa. Nella classifica stilata dall'OCSE siamo al 23esimo posto su 30 paesi. Un lavoratore italiano senza familiare a carico guadagna in media poco più di 15.800 euro, il 17% in meno della media. All'estero è iniziato stamattina il processo contro la leader dell'opposizione democratica birmana Aung San Suu Kyi, accusata di aver violato gli obblighi degli arresti domiciliari. San Suu Kyi rischia una condanna a 5 anni. Per lo sport, il calcio, ieri sera festa scudetto per l'Inter, che ha battuto anche 3-0 il Siena, ma Ibrahimovic dice: non sono uno che rimane in un club per tutta la vita. Nel pomeriggio pareggia la Juventus e vince la Fiorentina, in coda invece vincono Torino, Bologna e Reggina. E infine per il ciclismo è stata una farsa la tappa del Giro d'Italia corsa a Milano, corridori che fanno sciopero per la scarsa sicurezza del circuito, vanno a velocità turistica e poi i velocisti si ribellano, alla fine vince Cavendish. Oggi è prevista una giornata di riposo. Tutto questo alle 8:33, 349-238-6666 è il numero per i vostri messaggi. E allora, come annunciato, è ospite nostro oggi il sindaco di Torino, Sergio Chiamparino. Sindaco, buongiorno. Buongiorno. Allora, partirei dalla Fiat, partirei da quello che è successo sabato, ovviamente. Lei c'era, anche se non ha visto, ma insomma poi è stato documentato, insomma, quello che è successo al leader della FIOM. Sì. Ecco, che ne pensa? Le chiedo, sindaco, il leader della FIOM Rinaldini è tolto dal palco da una sigla sindacale minore. Lei non ha visto, ma le chiedo, la condanna è stata unanime. La preoccupa o è un episodio da circoscrivere, secondo lei? Ma secondo me è un episodio indubbiamente grave e anche preoccupante, perché, come dire, è stato un episodio cercato, voluto. Io sono stato a lungo fino quasi alla fine del corteo con gli operai, compresi gli operai di Pomigliano d'Arco, che erano dietro il loro striscione, col sindaco di quella città, e non c'era il minimo segnale di questo, quindi è evidente che chi ha cercato, ha fatto quell'azione, lo ha fatto consapevole, non è stata un'esplosione spontanea di rabbia, ecco, intendo dire, è stata voluta, cercata, quindi questo è il segno che c'è qualcuno che sta cercando di pescare nel dormito. Evidentemente bisogna quindi che ci sia un'azione congiunta da parte di tutti, in primis delle organizzazioni sindacali, per cercare di isolare nel modo più risoluto queste frange. Senta sindaco, lei anche ieri ha fatto un'intervista all'Unità dicendo accettiamo senza paura la sfida della Fiat, l'amministratore delegato Marchionne continua a ribadire non ci saranno chiusure, oggi il ministro Scajola in un'intervista al Corriere continua a dire la Fiat ci continua a assicurare su questo, perché allora secondo lei c'è invece diffusa l'idea tra gli operai, tra una parte degli operai dipendenti della Fiat, che c'è questo timore? Ma guardi, intanto perché il contesto, nel senso che il contesto è un dato in cui c'è una crisi di mercato nel campo dell'auto e non solo, che lei conosce meglio di me e che ha visto perdere cifre fra il 30 e il 40% del mercato mondiale, con ripercussioni pesanti sulla cassa integrazione ordinaria, quindi sul reddito mensile, e questo non può non indurre incertezze e quindi preoccupazioni tra gli operai. Secondo, il dato che ho sentito ancora adesso nel vostro notiziario, è gli stipendi bassi, anche questo è un elemento che... Cioè, allora, intanto il contesto ingenera preoccupazioni e sarebbe solo uno stolto può non essere preoccupato in questa condizione qua, e gli operai certo sciocchi non sono, quindi prima di tutto questo. Secondo, indubbiamente c'è una consapevolezza di un altro dato di contesto, che a livello Europa e forse non solo c'è una sovracapacità produttiva del settore auto che ha una, come dire, una che deriva da una storia e che andrà affrontata. Il mio ragionamento è che è più facile affrontare questa sfida se siamo all'offensiva e che non se siamo sulla difensiva. Se Marchionne riesce nella sua operazione di costituire un grande gruppo internazionale in cui gli italiani e la Fiat sono i protagonisti principali, è più facile affrontare questo problema delle necessarie razionalizzazioni senza effetti traumatici che non se invece si è dei comprimari. Meglio essere aggressivi sul mercato in questo momento che aspettare. Sapendo che i dati di contesto sono quello, ma se uno è all'offensiva, se segna, diciamo, se è il protagonista di un nuovo gruppo mondiale che può crescere anche in mercati diversi dall'Europa, ci saranno migliori possibilità e anche tempi più lunghi per poter gestire le ristrutturazioni che saranno necessarie. Ma io le parlo come sindaco di una città che 4-5 anni fa vedeva lo stabilimento di Torino, cioè Mirafiori, per metà già fermo e di cui tutti parlavano solo come di un stabilimento da chiudere. Abbiamo fatto anche noi la nostra parte e adesso è uno stabilimento che si sta ancora di più rivitalizzando. Allora, però tutte queste cose si fanno molto meglio se il gruppo, pensi lei cosa sarebbe successo a Mirafiori se la Fiat anziché avessere questi 4 anni di ripresa fosse stata nell'angolo. Le chiedo per chiudere l'episodio di sabato, sa, c'è da registrare per esempio il ministro Calderoli che ha detto vedo rischi di neobrigatismo latente che stanno emergendo, è una frase troppo dura che lei pur condannando quello... Io non ho i mezzi per parlare di brigatismo, certamente ci sono frange in cui, che diciamo, puntano a far leva su gli elementi di preoccupazione, di disagio, di malcontento per cercare di portare avanti politiche di contrapposizione tanto radicale o almeno tanto apparentemente radicale quanto in realtà contraria agli interessi degli lavoratori. Sindaco, veniamo all'altro tema, l'immigrazione, quello che l'ha vista un po' sulle prime pagine dei giornali, no? Lei è un importante esponente del PD, ha detto in un'intervista al Mattino, sono della linea, peraltro la linea espressa da Fassino, la linea espressa da Francesco Rutelli. Ecco, ma allora innanzitutto ci chiede, questa famosa, ieri lei pare che abbia ricevuto una telefonata di Franceschini, questa lettera di reprimenda arriva, non arriva? C'è? Non l'ha ricevuta? Ma arriverà? Ho ricevuto questo non lo so, bisogna chiedere alle Poste. Non so, lei ha parlato con Franceschini, le avrà chiesto se c'è una lettera in arrivo. Lui mi ha detto che lui non era a conoscenza, poi non lo so. Anzi, lui mi ha detto che in realtà se ci vedevamo gli interventi che lui stesso aveva fatto alla Camera su quel tema non c'erano poi così grandi differenze, al di là delle ovvie differenze tra un'intervista e un intervento fatto nella dichiarazione di sfiducia al governo, insomma. Però che ci sia una, voglio dire, che ci sia un'idea su questo tema, e se mi permette anche su altri temi, su questo come altri, che nel PD ci sia un po' un briglia sciolta, liberi tutti. Oggi leggo sulla stampa, tanto D'Alema striglia Chiamparino, Dario, cioè Franceschini, lo consola, ecco. Ma voi vi divertite anche come giornalisti a accentuare titolazioni, anche perché lo capisco, anche quello serve a tirare la lettura, quindi no. Ma lei vede una linea comune su questo tema nel PD? Perché lei ha detto il partito sta regredendo su questo tema. Ma guardi, io penso questo, che ci sia una linea, che non ci sia niente di drammatico se ci sono delle diversità di posizione su questo tema. Io ritengo che l'importante è che questa, come dire, ed è la cosa che a me aveva fatto scattare la molla, è che questo non si condisca di accuse, diciamo, che ricordano tempi che io spero siano passati definitivamente. Cos'è la slealtà? Si riferisce alla slealtà? L'accusa di... qua, io spero che siano, diciamo, siano definitivamente archiviate, perché non c'è nessuno che può essere considerato sleale perché esprime una posizione, quando anche fosse una posizione diversa, anche se poi, come appunto mi dice Franceschini, non è poi così diversa da quella che è stata espressa anche nella Camera. Detto questo, il problema è che, però, attorno al quale nessuno, stranamente tutti girano, perché parliamo del merito, voi giornalisti siete bravi a fare i titoli, ma poi nel merito spesso, se potete, diciamo, lo mettete in secondo piano. Cioè, qui c'è una questione: possiamo tranquillamente, può non il governo ma uno Stato, lo Stato, accettare che le migrazioni siano gestite sostanzialmente dalle organizzazioni mafiose nazionali e internazionali? Perché su questa cosa nessuno, la mia posizione è molto semplice, io dico che queste organizzazioni che oggi hanno il monopolio sostanzialmente dei traffici di persone, sono un nuovo schiavismo, queste persone devono essere contrastate, e questi conoscono solo due leggi: il guadagno, e su questo si può far poco perché la domanda purtroppo è una domanda, come dire, che è molto, quasi inesauribile, sì, almeno per una lunga fase, e la forza, perché non capiscono altre cose. Solo due risposte. La forza è una risposta che può essere necessaria in alcuni casi, ripeto, come Stato, non come governo, ma non è certamente sufficiente. Allora io mi interrogo su una cosa: ma è possibile che, mettendo insieme la rete delle rappresentanze diplomatiche dei singoli Stati e delle agenzie internazionali, non sia possibile costruire appunto una rete, un percorso che permetta a queste persone, le stesse che vengono con i barconi, di invece avere accesso alla richiesta di asilo, dello status di rifugiati, senza dover passare per le organizzazioni mafiose che poi utilizzano questo per infilare magari anche altre persone che invece vengono qui con intenti del tutto diverso, sì, da quello di chiedere la giusta, il giusto rispetto dei loro diritti. Ma lei ha anche detto: io vado nei quartieri popolari e capisco che questo è il tema, l'immigrazione, che la gente, no, che la gente sente. Io le dico una cosa, a me succede proprio tra sabato e ieri. Allora, io ieri sono andato a inaugurare con il parroco della zona un oratorio di Don Murialdo, c'erano circa 2000 persone appena uscite da messa, quindi presumo sensibili ai richiami della Chiesa. E di quelle persone io sono trovato gente che mi ha incoraggiato ad andare avanti, a tenere duro. Sabato, viceversa, ero andato a fare un giro nei mercati e qualcuno, non tanti per fortuna, ma qualcuno che mi ha, con rispetto, ma aggredito politicamente, sa su che base l'ha fatto, dicendo, sì, che io ho riempito di immigrati Torino. Quindi, diciamo, se sono attaccato da quelli che mi accusano di aver riempito di immigrati Torino e al tempo stesso sono incoraggiato ad andare avanti da quelli che escono da messa, credo che le mie posizioni non siano poi così. Allora le faccio la domanda. La domanda finale: teme che su questo tema, perché è diventato un tema elettorale, il PD rischia di perdere molto? Ma guardi, questo, io credo che gli spostamenti elettorali, se ci sono stati, siano già avvenuti. Questo, io non sono affatto preoccupato di questi temi per la campagna elettorale. Io sono preoccupato del fatto che, proprio perché sono convinto che l'immigrazione sia una grande risorsa per il nostro paese, temo che se questo fenomeno non è governato rischia invece di diventare un elemento che, specie nei settori più poveri della popolazione, anche con meno strumenti culturali, diventi un elemento di frantumazione, di lacerazione. Una società lacerata è una società che non ha più speranza per il futuro. Io la ringrazio, Sergio Chiamparino è il sindaco di Torino, grazie per essere stato con noi del Partito Democratico. Insomma, Fiat e immigrazione, i due grandi temi che abbiamo trattato oggi, perché sono i temi più all'ordine del giorno, cioè sarebbe molto, molto anche altro da dire. Grazie a Sergio Chiamparino. 8:46 minuti, allora le strade in diretta le recupereremo quanto prima, ovviamente, per informarvi sul traffico. Eccoci qua, 8:46 minuti, l'ultima parte del 24 mattino. Come detto, ci sono alcuni comuni che sono passati da una regione all'altra, un po' sotto silenzio, devo dire. Credo che siamo in Valmarecchia, se non sbaglio. Saluto Goffredo Polidori. Polidori, buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno ai vostri ascoltatori. Allora, lei è il sindaco di Sant'Agata Feltria, è giusto? Sindaco di Sant'Agata Feltria. Numero di abitanti? Circa 2.400. 2.400. Fino a qualche giorno fa stavate nelle Marche. Ma siamo ancora nelle Marche, per la verità, perché la legge dovrà poi passare attraverso il Senato. Quindi... Vabbè. Però diciamo il grosso il dado è tratto, come disse qualcuno prima di noi. 7 comuni delle Marche passano all'Emilia, ormai c'è l'ultimo passaggio al Senato, c'è stato il passaggio alla Camera con una legge. Quali sono i comuni della Valmarecchia? Perché perché siete andati in Emilia, volete andare in Emilia? Noi intanto per ubicazione topografica, per costumi, relazioni, commercio, il territorio dei 7 comuni è limitrofo alla Romagna e quindi alla provincia di Rimini. Per andare alla provincia di Pesaro basti pensare che occorre passare attraverso la provincia di Rimini, quindi andare a Rimini e poi girare verso Pesaro. Questa è un po' la condizione di questo lembo di terra a confine appunto anche con la Toscana, all'interno delle Marche, ma che da sempre vive in simbiosi con le terre romagnole. Quindi dite già che per andare a Pesaro bisogna passare per Rimini, metteteci sotto Rimini, e così sarà. Infatti, cioè... ma non è solo questo, già eravamo insomma romagnoli. Sant'Agata Feltria sotto il primo regno italico era un cantone annesso al circondario di Cesena. Ha messo l'accento romagnolo, sindaco? Io non sento, non so già. Se parlando sta entrando nella parte o no, so, è che è proprio così. Siamo romagnoli, per cui abbiamo anche l'accento romagnolo. Dicevo che era un cantone annesso al circondario di Cesena e rimase fino a che una disposizione del governo pontificio lo volle distaccato e nuovamente annesso al circondario di Urbino. Questo col finire del marzo del 1865. Già il sindaco di Sant'Agata nel 1867 richiedeva di ritornare nella Romagna, per cui evidentemente è una questione che affonda storica. Le radici nella storia. Allora, sindaco, stia con noi, perché in una sorta di fratellanza, no? Andiamo a Lamon, in provincia di Belluno, dove saluto Renzo Poletti. Poletti, buongiorno. Buongiorno a voi. Lei è il promotore del referendum a Lamon, insomma è coordinatore anche dei comuni del bellunese che si vogliono staccare dal Veneto e andare in Trentino Alto Adige. Poletti, insomma, qui devo dire che il sospetto un po' che sia fatto per andare in una regione a statuto speciale sorge. Il problema è essenzialmente uno, cioè che noi paesi di montagna, o soprattutto Lamon paese di montagna, necessita di una politica della montagna. Questo vuol dire praticamente avere il cervello della politica in montagna. Pronto? Mi senti? Sì, la sento bene. Perché non la si può fare in Veneto la politica della montagna? No, non penso che una città o dei politici che vivono in pianura o in mezzo al mare capiscano le problematiche, gli stili di vita, la cultura della montagna. E qua vengono le disfunzioni, diciamo così, della politica nostra in montagna. Quindi tutto per la politica della montagna. Ed è fondamentale, sì. Se noi andiamo nel Trentino al di là, dello statuto speciale. Ecco, perché non mi dica che proprio quando vi siete messi a tavolino 0, un conto non ve lo siete fatto, no? No, noi abbiamo sempre pensato che lo statuto speciale consente al Trentino Alto Adige innanzitutto di salvaguardare, di analizzare attentamente il suo territorio, che è un territorio di montagna, sono dei paesi agganciati, diciamo così, alla montagna, quote mille, che hanno bisogno di determinate politiche per poter vivere, non sono abbandonati a se stessi. L'autonomia, lo statuto speciale, ce l'ha anche la Sicilia, ce l'ha anche la Sardegna, ma non mi sembra che brillino per la loro efficienza amministrativa, anzi sono delle palle al piede per lo Stato italiano. Addirittura. Quindi, la Sicilia no. Basta vedere Catania e Palermo che continuamente continuano a prendere finanziamenti. Hanno dei buchi finanziari. Non dico. Se lei viene nel Trentino e vede un paese a 1000 metri, 900.000 abitanti, con la sua strada bellissima che li porta su, con le comunicazioni anche in internet efficientissime, tutti lassù in montagna può vivere anche un piccolo artigiano, può vivere. No, ma benissimo, però che dobbiamo fare? Voi quanto state al confine proprio fisicamente? Noi siamo proprio attaccati. Cioè, che dobbiamo fare? Cioè, ci sono un confine da qualche parte, bisognerà metterlo, Poletti. Purtroppo, voglio dire, purtroppo per voi che siete di qua di qua del Veneto. Infatti, e non di là. Attualmente c'è una legge, la 352, che parla che praticamente per avere il cioè coloro che possono andare di là devono avere determinati requisiti, sono degli enclavi come lo siamo noi all'interno del territorio del Trentino, hanno una cultura uguale, perché noi siamo la cultura di montagna, è uguale, e stessa concezione della vita, insomma bisogna avere determinate caratteristiche. Sì. Ma al confine capita, insomma, si sa, voglio dire che al confine non è che 2 chilometri cambino totalmente. Due chilometri cambiano, perché noi se scendiamo a valle, diciamo, già nel Feltrino, che sarebbe il nostro centro più grosso, la cultura comincia da essere diversa. Insomma, io non non dico che non mi stia convincendo, però insomma capisco un po' del suo ragionamento. Tra l'altro un ascoltatore ci scrive: allora l'Aspromonte in Trentino, non esageriamo, no? Anche se avevo letto una volta che le isole Tremiti, per provocazione, avevano detto, credo, le Tremiti, ma non vorrei sbagliarmi, forse non erano le Tremiti, dicono noi vogliamo annetterci al Trentino per lo statuto speciale. Vabbè, ma questi poi da una cosa che può essere anche seria si scade nel semiserio. Renzo Poletti, le chiedo, volevo andare per un attimo ancora a tornare a Goffredo Polidori, per la verità, il sindaco di Sant'Agata Feltria. Polidori, voi ce l'avete quasi fatta, cioè c'è stato il passaggio alla Camera, insomma, incrociate le dita, c'è il passaggio al Senato, ma in realtà sono circa 100 i comuni in tutta Italia che stanno facendo l'iter. Io ricordo Cortina, ci ha scritto per esempio anche un ascoltatore che vuole andare in Trentino. L'altopiano di Asiago. L'altopiano d'Asiago, ci sono una serie di comuni, alcuni in Val d'Aosta, Sappada vuole, credo, andare da un'altra parte, insomma. L'iter è complicato, cioè voi che legge avete fatto, che iter avete fatto? Un referendum innanzitutto, immagino? È stato fatto un referendum dai 7 comuni, un referendum unitario, solo che il referendum poi ha un primo passaggio, poi il passaggio normale è la legge che di aggregazione, di distacco da una regione e aggregazione di un'altra regione. Questo è l'iter normale, certo. Però per regioni a statuto ordinario. Perché infatti che le stagioni a statuto speciale e le regioni a statuto speciale hanno qualcosa di più. Costituzionale. Renzo Poletti, è vero così, no? Voi dovendo passare, volendo passare in Trentino, avete bisogno di una legge costituzionale. Non ce la farete mai, Poletti, si rassegni. Allo stato attuale, siccome c'è un contenzioso fra giuristi, è intervenuta anche la Corte Costituzionale, che ha detto che il territorio non fa costituzione, pertanto anche a noi dovrebbe servire una legge ordinaria. E qua sarebbe da affrontare il problema e discuterne anche col Parlamento. Sì. Ma lasciando a perdere questo, noi è dal 2005 che abbiamo fatto il referendum e la nostra situazione è tale per cui siamo sulla soglia del Parlamento e tutt'oggi non si trova la forza o le forze necessarie per riuscire a calendarizzare questa la cosa. Perché allora, è stato il primo comune da molto. No, me lo ricordiamo, è per quello che l'abbiamo chiamata. Poletti, io devo chiudere, ma seguiremo il vostro iter. Sa cosa ci scrive Luca da Belluno? Quante scuse sulla cultura. Schei e basta, dai. Schei, ci siamo capiti, no? Lei almeno l'ha capito, Poletti. Una cosa volevo dire. Sì. Belluno attualmente sta vivendo un conflitto enorme con il Veneto, con la regione Veneto, per avere, diciamo così, parte delle specificità di competenza della montagna, la gestione dell'acqua, dei boschi e via di questo senso. E nonostante tutto non riesce a ottenere niente dal Veneto. Vabbè, ma io devo chiudere, guardi, lei contesta il fatto che sia solo una questione di soldi, ma seguiremo il vostro iter anche, Lamon, grazie, così come grazie al sindaco di Sant'Agata Feltre, Goffredo Polidori, ce l'avete quasi fatta ad arrivare in Emilia, dalle Marche. Noi ci fermiamo qui, tra poco c'è Giuliano Ferrara, ringrazio Alessandro Marcotulli, Laura Marchesi in redazione, Carmelo Lauricella in regia. Scriveteci 24 mattino @radio24.it. A domani.